Letture di Radio 24. Sette italiani su 10 hanno difficoltà a comprendere un testo scritto di media difficoltà. È il cosiddetto analfabetismo di ritorno, un fenomeno descritto dal noto linguista italiano Tullio De Mauro nei giorni scorsi a Firenze al convegno Leggere e Sapere, la scuola degli italiani. Purtroppo, se oggi si dovesse giudicare dal livello di padronanza dell'italiano, il grado di attaccamento alla nazione, saremmo davvero messi molto male. La salute della nostra lingua, infatti, sembra piuttosto allarmante, almeno a giudicare dai dati che Tullio De Mauro ha illustrato nei giorni scorsi a Firenze durante un convegno del Consiglio regionale toscano intitolato Leggere e Sapere, la scuola degli italiani. Tra i numeri evocati da De Mauro e fondati su ricerche internazionali ce ne sono alcuni particolarmente impressionanti. Per esempio, quel 71% della popolazione italiana che si trova al di sotto del livello minimo di comprensione nella lettura di un testo di media difficoltà, al che corrisponde un misero 20% che possiede le competenze minime per orientarsi e risolvere, attraverso l'uso appropriato della lingua italiana, situazioni complesse e problemi della vita sociale quotidiana. Basterebbero queste due percentuali per far scattare l'emergenza sociale, visto che il dominio della propria lingua è un presupposto indispensabile per lo sviluppo culturale ed economico dell'individuo e della collettività. Fu lo stesso Tullio De Mauro, quasi 50 anni fa, a segnalare il contributo non solo della scuola, ma anche della televisione, nell'apprendimento di una lingua media che superasse la frammentazione dialettale. Istruzione e scuola sono i due concetti chiave. Se nel dopoguerra, fino agli anni 90, il livello di scolarità è cresciuto fino a una media di 12 anni di frequenza scolastica per ogni cittadino, oggi si registra, con il record di abbandoni scolastici, un incremento pauroso del cosiddetto analfabetismo di ritorno, favorito anche dalla dipendenza televisiva e tecnologica. Non deve dunque stupire che il 33% degli italiani, pur sapendo leggere, riesca a decifrare soltanto testi elementari. Del resto, pare che la conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche sia pressoché assente persino presso i nostri studenti universitari, come avviene per le nozioni matematiche. Non bisognerebbe mai dimenticare che la conoscenza della lingua madre è il fondamento per lo studio delle altre discipline scolastiche e delle altre lingue, inglese compreso, così come è alla base della capacità di orientarsi nella società e di farsi valere nel mondo del lavoro. Se ciò risulta vero, non è eccessivo affermare che l'emergenza culturale nel nostro paese dovrebbe preoccupare almeno quanto quella economica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Di Stefano, 7 italiani su 10 non capiscono la lingua, dal Corriere della Sera del 28 novembre 2011.